in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi hanno titoli abbastanza diversi uno dall'altro, i titoli principali, poi le notizie in prima pagina più o meno sono quelle ma date con rilievo diverso. Il Sole 24 Ore invece ha proprio un titolo che sugli altri giornali non trova spazio ed è relativo all'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea. Pensate, quelli stanziati per e intesi per essere spesi tra il 2007 e il 2013, ebbene ne resterebbero da spendere ancora 8,8 miliardi. E in questo stesso articolo, che poi trovate alle pagine 2 e 3, c'è anche un accenno all'ennesima follia sulla legge di stabilità, perché ci sono ancora 3.560 emendamenti da esaminare quando la legge arriverà al Senato. Un commento a questo è di Dino Pesole, niente assalti alla diligenza. Sapete che veniva in passato chiamato un po' così, ma forse la definizione è ancora attuale e valida, l'atteggiamento appunto nei confronti della diligenza, cioè della legge di stabilità che tutto contiene, tutto può contenere e nella quale alla fine che alla fine viene assaltata appunto aggiungendo emendamenti di ogni genere. L'editoriale principale però è del direttore Roberto Napoletano e riguarda un anniversario importante per noi del Sole 24 Ore di carta, ma e quindi per riflesso anche per tutto il gruppo e quindi anche per la radio, di cui comunque Roberto Napoletano è direttore. L'anniversario è quello dei 150 anni del Sole 24 Ore, che come forse molti di voi sanno è un giornale nato dalla fusione di due quotidiani economici, uno si chiamava Il Sole appunto e un altro 24 Ore. E Roberto Napoletano ripercorre un po' la storia di questo giornale, poi all'interno del giornale trovate, come poi vedremo, anche alcune copertine storiche. È naturalmente un pezzo dell'editoria italiana ed europea, perché se consideriamo questi 150 anni siamo il più antico quotidiano economico europeo, e naturalmente poi ci sono tutte le sfide del futuro, in particolare la famosa o famigerata integrazione tra carta e web. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche la consueta lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che ogni settimana si concentra su un titolo quotato. Questa settimana è BV Biotech, focus su cure antidolori, nuovi farmaci in oncologia, trovate poi tutto a pagina 16. Altro consueto intervento della domenica, quello di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasco, che prende spunto dal quinto convegno nazionale della Chiesa italiana che si apre domani a Firenze, il titolo 3 virtù per uscire dalla crisi. E infine un altro editoriale di Luca Ricolfi, che inizia in prima pagina, poi trovate a pagina 18, nell'orto dei decimali non cresce il lavoro. La fotonotizia, potremmo dire così, invece è dedicata a quella che viene definita la stretta di mano per la storia tra il presidente cinese e quello di Taiwan, che non si incontravano da 66 anni, una stretta di mano che, come ci racconta Rita Fatiguso, è un record di per sé perché è durata esattamente un minuto. Il Corriere della Sera titola Il piano del governo per il dopo Expo, questo è il titolo principale, con un lungo articolo alle pagine 2 e 3 poi di Enrico Marro che ipotizza appunto tutti gli usi dell'Expo, che è terminato da pochi giorni, esattamente il 31 ottobre, e tutti dicono che la cosa importante adesso è fare in fretta per trovare un uso alternativo di questo gigantesco sito, 1 milione di metri quadri, che in grandissima parte verrà smantellato. Resteranno probabilmente solo il padiglione Italia e l'albero della vita, che però da lì dovrebbe essere spostato, e tra l'altro è una scultura, quindi non è una struttura che può ospitare università o centri di ricerca. E appunto Enrico Marro ci spiega: tecnologie umane applicate alla qualità della vita, Renzi affida la regia del polo all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Poi una grande fotonotizia con 4 foto diverse per spiegarci come, e lo sappiamo tutti del resto, questo novembre sia quasi una primavera, sia quasi un'estate prolungata. Cartoline estive Italia novembre. E poi in prima pagina anche la notizia che avete sentito anche nei GR, della missione fatta dall'Egitto, un'esplosione sul jet, e poi queste rivelazioni sempre di ieri che in agosto un aereo inglese evitò un razzo, con ogni probabilità un razzo dell'ISIS, un aereo inglese che naturalmente sorvolava e poi atterrò in Egitto. Vi segnalo Padiglione Italia, la rubrica domenicale di Aldo Grasso, che è sempre punzecchia sempre qualcuno, e questa volta è Corradino Mineo. Ve la leggo, forse avete ricordate l'attacco di Corradino Mineo di questi giorni a Renzi, che lo ha accusato con un messaggio così un po' criptico di essere Renzi succube di una donna molto potente. E allora Aldo Grasso comincia citando un proverbio, un verso di una canzone di Lou Reed che si chiamava Straw Man. Il verso è questo: spitting in the wind comes back at you twice as hard, che significa se sputi contro vento ti torna indietro col doppio della forza. Qualcosa del genere è successo al senatore Corradino Mineo, piccato da alcuni apprezzamenti che Matteo Renzi aveva confessato a Bruno Vespa per il suo consueto libro natalizio. Mineo se n'è uscito con allusioni velenose, avvertimenti di debilitante miseria morale. Lui sa che io so quanto possa sentirsi subalterna a una donna bella e decisa. È la politica, signori, sangue e mer, puntini puntini, come sosteneva Rino Formica, e l'ultima cosa che ci interessa è sguazzare nell'umor nero delle insinuazioni. Certo, per un giornalista linguacciuto come Corradino, suo maestro e mentore è stato Sandro Curzi, commettere simili errori di comunicazione è imperdonabile. Le giustificazioni del giorno dopo, poi, non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, e non è la prima volta. Tempo addietro aveva addebitato al premier comportamenti autistici, suscitando un vespaio di proteste. La politica è quello che è: la minoranza del PD, quando perde posti di potere, sopravvive solo impugnando la bandiera rossa dello scissionismo. Corradino è una povera e triste anima querula, citazione da Giuliano Ferrara, e tuttavia gli odi insanabili sono sempre quelli di famiglia. Chissà perché, non il miele, ma il fiele provoca lo sputazzo. Questo era Aldo Grasso, appunto, nella rubrica Padiglione Italia. La Repubblica ha, a proposito di scissioni, un titolo ancora diverso che è relativo al convegno che c'è stato ieri a Roma: nasce il partito che sfida il PD. E poi anche una riga per la reazione di Renzi: Renzi, due punti, delirano. Questo partito, come avrete sicuramente sentito, è stato lanciato da Stefano Fassina, che ha lasciato il PD, e gli ex parlamentari di SEL, che hanno lasciato questo grande gruppo, hanno lasciato i loro rispettivi gruppi parlamentari e lanciano questo progetto chiamato Sinistra Italiana, accusando persino Bersani, che insomma è stato per tanto tempo il grande avversario di Matteo Renzi all'interno del PD. Adesso però è diventato per questi di Sinistra Italiana l'ennesimo nemico. E poi una riga per ricordare che oggi a Bologna c'è questo atteso convegno che vedrà indetto dalla Lega Nord di Matteo Salvini, ma che vedrà anche la partecipazione di Forza Italia. La fotonotizia invece è dedicata, abbiamo visto, alla missione dell'Egitto sulle cause dell'esplosione in volo della tragedia aerea di settimana scorsa. Si era parlato nelle primissime ore di errore umano, ma ora si ammette che l'aereo è esploso in volo e che probabilmente appunto a bordo c'era una bomba. La Stampa: sinistra e destra, l'attacco di Renzi. L'accenno è a questa nuova formazione politica di cui abbiamo parlato, Sinistra Italiana, è allo stesso, e da sinistra appunto. Invece a destra l'attacco è quello che arriverà sicuramente oggi da questa grande riunione che c'è a Bologna. E poi però la fotonotizia, la stretta di mano tra i presidenti di Taiwan e della Cina, è la stretta di mano che fanno la storia. Il Messaggero ha un titolo ancora diverso che torna sul tema degli statali. Questa settimana si è parlato molto anche qui a Radio 24 delle dichiarazioni del ministro Madia, che forse in un paese normale sarebbero appunto solo parole normali, le ricordo, cioè che chi timbra il cartellino e poi non va a lavorare, o in generale chi ha comportamenti truffaldini sul posto di lavoro tra gli statali, andrebbe licenziato, vespaio di polemiche. E quindi appunto resta il tema della riforma della pubblica amministrazione, che naturalmente potrebbe riguardare anche le modalità con cui si licenziano i lavoratori disonesti. Ora il Messaggero approfondisce tutto il tema della riforma, spiegando che il governo ha aperto sul tetto di spesa per il turnover nella pubblica amministrazione, ma ci sono anche tanti altri temi legati alla legge di stabilità, e c'è anche uno scontro sul deficit per quanto riguarda la questione dei migranti, perché l'Europa andrebbe verso un sì solo parziale alle richieste dell'Italia. Anche qui ricorderemo, la questione è quella di scorporare la spesa che gli stati, in primis quelli come l'Italia, che devono che sono tra i primi paesi che devono fronteggiare l'emergenza migranti per una regione anche solo geografica, per una ragione anche solo geografica, hanno quindi delle spese aggiuntive che dovrebbero essere scorporate dalle spese generali. C'era stata una per non pesare su un eventuale deficit, c'era stata una parziale apertura dell'Unione Europea che ora pare un po' rientrata. Citiamo per una volta la Gazzetta dello Sport un po' in anticipo, perché naturalmente la prima pagina è dedicata al Gran Premio della MotoGP di Valencia, che partirà oggi alle 14, e sappiamo che Valentino Rossi parte in ultima fila, deve difendere la possibilità di diventare campione del mondo, e quindi il titolo vale, solo tu lo puoi fare, il decimo mondiale partendo ultimo contro un Lorenzo scatenato, missione impossibile, sì, se non si trattasse del dottore, il dottore, il soprannome di Valentino Rossi. Titolo ancora diverso per l'Avvenire, che torna sulle persecuzioni dei cristiani in Siria, l'agonia di Aleppo, non si ferma la fuga della città martire siriana, in una chiesa bombardata alla porta del Giubileo, persecuzioni in Siria e in Aleppo particolare, naturalmente non solo di cristiani ma in generale dei civili. E poi un accenno al discorso che ha fatto ieri Papa Francesco in un'audizione davanti ai vertici, ai dipendenti dell'Istituto di Previdenza, il lavoro e la pensione sono diritti. Ci lasciamo un attimo per la pausa, ci ritroviamo subito. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, come potete immaginare il giornale Libero si concentrano sull'iniziativa di oggi di Bologna, quindi il giornale con un editoriale di Alessandro Sallusti, torna al centrodestra, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia scendono uniti in piazza contro Renzi. E poi una riga di sommario un po' così polemica, se vogliamo: a Roma è nato il nuovo Partito Comunista. Come abbiamo visto, in realtà non la parola comunista non c'è, si sono chiamati Sinistra Italiana, questa nuova formazione, ma il giornale appunto lo definisce il nuovo Partito Comunista. Libero intervista Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e la Meloni, ecco il nostro progetto, con un editoriale di Maurizio Belpietro, pensioni e dintorni, il fantasma del Quirinale, quindi una attenzione spostata anche sul ruolo molto silenzioso in questo momento, secondo Belpietro, di Sergio Mattarella. E poi il Manifesto, che titola Partita aperta, con una foto di Stefano Fassina, che abbiamo visto, abbiamo sentito anche al telegiornale, ha preso la parola ed è stato il più applaudito ieri a questa presentazione di questa nuova formazione politica. E devo dire che il Manifesto, con toni elogiativi che non vedevo nei confronti di nessuno, non leggevo nei confronti di nessuno da parte del Manifesto da mesi, forse anni, sentite cosa scrive: al Quirino di Roma stracolmo, in molti restano fuori, si dice tra parentesi, nasce Sinistra Italiana, passo importante per un nuovo soggetto politico aperto e radicale, alternativo al renzismo, insieme a Sel, ex PD, ex Movimento 5 Stelle, battesimo da star, cito testualmente, per Fassina e da Torre. Sempre a Roma le assise dei monumenti no TAV e per l'acqua pubblica. Le trovate la cronaca alle pagine 2 e 3. L'Unità fa una scelta un po' diversa, perché sì, dà in prima pagina la notizia di questa Sinistra Italiana, definiti gli alternativi a Bersani, e poi però il titolo principale con un 4 pagine di approfondimento su questo è la mia sinistra di governo. In realtà è l'intervento completo di Matteo Renzi, il manifesto politico di Matteo Renzi, la sinistra, le riforme, l'economia, l'Europa, il PD. E il Fatto Quotidiano invece ha un titolo ancora diverso, che riguarda Renzi ma per un motivo molto differente, che è quello della Corte dei Conti. L'opposizione deve avere gli scontrini di Renzi, la vicenda, lo sapete, è iniziata quando si è cominciato a parlare degli scontrini dell'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, poi si è detto che anche Renzi aveva alcune spese da giustificare, prima come presidente della provincia di Firenze e poi come sindaco di Firenze. È stato detto più volte che questi scontrini erano già pubblici, c'è molta polemica su questo. Il sindaco Nardella, scrive il Fatto Quotidiano, ci prova, c'è il segreto per l'inchiesta ma i giudici lo gelano. È sicuramente il Fatto Quotidiano che batte su questo argomento da molti giorni, credo continuerà a seguirlo. Vediamo le pagine interne dei giornali, torniamo sul Sole 24 Ore che ha un approfondimento a pagina 6 di Maximilian Cellino sul futuro nei prossimi giorni dell'andamento delle borse, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Il titolo: ecco chi brinda al rialzo dei tassi americani. Negli ultimi 6 cicli restrittivi Wall Street ha sempre guadagnato e quindi per ora l'attesa non preoccupa. Con un'analisi di Moria Longo, questa volta la stretta della Fed potrebbe far male per 3 motivi. Sapete che c'è molta attesa appunto per questa stretta monetaria che in molti danno per certa nella prossima riunione della Federal Reserve. Vi dicevo, per chi voglia ripercorrere, è veramente un pezzo di storia non solo dell'editoria ma della società italiana, questa dei 150 anni del Sole 24 Ore. Trovate tutto alle pagine 18 e 19, l'editoriale di Roberto Napoletano che abbiamo visto inizia in prima pagina, il coraggio di innovare con la forza del passato, e poi anche un accenno a come ci sarà tutta l'archivio del Sole 24 Ore e del Domenicale, l'offerta disponibile online per la storia, appunto definita la storia a portata di click. Queste le pagine 18 e 19. Ma veniamo alla pagina, veniamo agli altri giornali. Il Corriere ha un approfondimento, come tutti del resto, su questa nascita di Sinistra Italiana. Vi segnalo a pagina 9 perché questi sono gli scissionisti, no? In un certo senso, questi fuoriusciti del PD. Tra di loro c'è a tutti gli effetti Pippo Civati, ma Pippo Civati non era ieri a Roma perché in tutto sommato è già scissionista degli scissionisti. E da qui l'intervista di Monica Guerzoni. Parterre politico. Il mondo non lo è più, questo è il titolo. E la prima domanda: Civati al Quirino mancava solo lei, il teatro dove si è svolto appunto questo incontro. Risposta: non ho raccolto l'invito perché non faccio parte del gruppo parlamentare che nasce, non mi piace il metodo, è un'operazione di vertice. Lei cosa avrebbe fatto? 6 mesi fa noi abbiamo proposto un lavoro più lungo ma più denso, io avrei messo su dei comitati in giro per l'Italia che venivano da esperienze diverse, questa soluzione non è piaciuta e non è che ora si può fare il contrario. E quindi Civati si sfila già da questa formazione del suo ex amico, potremmo dire, Stefano Fassina. Poi dal Corriere della Sera anche un interessante approfondimento di Luigi Ripamonti sul futuro dei chirurghi, partendo dai dati sui posti vacanti nelle scuole di specializzazione. Pochi fanno i chirurghi per paura delle cause. Questa potrebbe essere, secondo Ripamonti, uno dei motivi appunto di questa carenza di aspiranti chirurghi. Se la tendenza sarà confermata, fra 10 anni dovremo importare medici dall'estero, come del resto già succede per un'altra professione importantissima della sanità, che è quella degli infermieri. E poi dal Corriere Salute, che è l'approfondimento che ogni domenica il Corriere dedica appunto ai temi della salute, 3 pagine, tutte una più interessante dell'altra, e il primo articolo è intitolato "Perché leggere fa bene al cervello. I buoni romanzi arricchiscono la nostra intelligenza sociale, cioè la capacità di capire gli altri e di interpretare il mondo. Ora a dimostrarlo non è solo l'esperienza", perché forse appunto queste prime righe le potremmo sottoscrivere tutti noi lettori di romanzi, di libri, ma sofisticati metodi di indagine neurologica che svelano anche le diverse aree cerebrali attivate dai differenti generi letterari. Passiamo alle pagine invece della Repubblica, anche qui un bellissimo approfondimento, un reportage di Pietro Del Re dal Polo Nord, è andato a visitare l'Arca dei Semi alle isole Svalbard, qui custodiamo la biodiversità. Nel forziere dell'agricoltura sono conservati campioni vegetali di tutto il mondo. A 8 anni dalla sua inaugurazione la prima richiesta di prelievo da ricercatori siriani in fuga dalla guerra. E poi, come vi dicevo in prima pagina sul Sole 24 Ore, l'articolo di Rita Fatiguso che racconta la stretta di mano tra il presidente di Taiwan e quello della Cina. La Stampa ha 2 pagine su questo, con da una parte la cronaca, 2 Cine, una stretta di mano, di Ilaria Maria Sala, che è l'inviata a Hong Kong della Stampa, e quindi appunto copre in generale tutti i grandi avvenimenti asiatici, e poi una carrellata intitolata "Quando un gesto vale più di un trattato", con foto storiche come quelle di Yitzhak Rabin e Yasser Arafat che si strinsero la mano davanti a Clinton nel 1993 alla Casa Bianca, oppure de Klerk, allora presidente del Sudafrica, che alzò la mano insieme a Mandela nel 1993, il simbolo della fine, almeno formalmente, dell'apartheid. Ma ancora la stretta di mano tra Barack Obama, questa è recentissima del 2013, e Raul Castro, il fratello di Fidel Castro, insomma proprio un excursus storico. A Yalta, ricorda la Stampa, i vincitori del conflitto mondiale si spartirono il mondo, quello fra Obama e Castro ha chiuso mezzo secolo di litigi. un supplemento della Stampa dedicato ai cambiamenti climatici. Dicevamo ieri di questo pazzo novembre, può essere anche solo un'eccezione, però insomma a molti fa effetto ed è abbastanza semplice collegarlo a un più generale cambiamento del clima, non solo in Italia e in Europa, nel mondo. Siccome inizia questa importante conferenza di Parigi sul clima, la Stampa ha un approfondimento di parecchie pagine proprio dedicata a questo: clima pazzo, adesso salviamo la nostra terra. E poi vi segnalo dal Messaggero invece un'intervista al ministro della cultura Dario Franceschini, intitolata così: fuori i tesori dai depositi, così torneranno in mostra. Il piano del ministro dei beni culturali, capolavori chiusi nei magazzini delle grandi gallerie, vanno riportate nei musei delle città da cui provengono e saranno valorizzati, perché in effetti non solo i singoli musei hanno spesso dei magazzini, questo capita in tutti i musei del mondo, che servono magari anche a far ruotare le esposizioni temporanee, ma addirittura si scopre che appunto molti musei italiani hanno magazzini esterni ulteriori che nascondono dei capolavori che per tanti motivi, magari anche solo burocratici, non vengono appunto messi in mostra. Da qui l'idea di Dario Franceschini per rilanciare anche i musei, per promuoverli meglio e per attrarre più visitatori, con appunto il vantaggio di poter dire che cambia continuamente ciò che viene esposto. E poi l'Avvenire, che torna su una questione che, se ci pensate, lascia veramente sconcertati, che è quella della mancanza dell'acqua a Messina. Abbiamo seguito molto la cronaca nei giorni scorsi, in realtà l'acqua non è ancora tornata in modo definitivo, e allora l'Avvenire fa la cronaca della giornata di ieri: rubinetti sempre a secco, riparato una conduttura ma resta l'emergenza. E qui si parla anche degli cosiddetti angeli della Caritas, perché come spesso succede nelle emergenze, oltre alla protezione civile, alle istituzioni diciamo più ufficiali, intervengono poi i volontari, in questo caso i volontari della Caritas, per aiutare la popolazione. Ultima segnalazione prima della pausa, dal Giornale, questa tristissima vicenda della giudice Silvana Saguto e del prefetto di Palermo Francesca Cannizzo, due donne che sono state sospese dai loro rispettivi incarichi perché sono accusate di condotta, possiamo così dire, in modo con un eufemismo poco professionale. E in qui a Maria Teresa Conti riepiloga questa vicenda con anche una citazione del giudice Roia, che dice: per la magistratura questo caso è un danno incalcolabile, per la reputazione naturalmente della magistratura. Ci lasciamo un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buona domenica da Giulia Crivelli. Ci ritroviamo per l'ultima parte della nostra rassegna dedicata ai supplementi culturali della domenica, e quindi iniziamo dalla nostra domenica, nostra del Sole 24 Ore. Non c'è il memorandum del direttore questa settimana, perché abbiamo visto c'è il lungo editoriale che tocca anche il tema dell'archivio della domenica, che troverete presto su internet. E c'è però Breviario di Gianfranco Ravasi, che parte con una citazione dello scrittore napoletano Giuseppe Marotta, e il titolo del breviario è Dopo morto. La citazione è questa: ah, come si diventa preziosi in Italia dopo la morte, non vedo l'ora di estinguermi per essere commemorato, descritto, lodato, eccetera, per sapere finalmente chi ero. L'encomio funebre è un genere letterario classico. Un maestro, ad esempio, era nel 600 Bossuet, vescovo, scrittore e soprattutto oratore. Ma chi non ha mai sentito il motto latino De mortuis nil nisi bene? Dei morti non si deve dire altro che bene? La manovella della lode, alimentata dall'enfasi, esalta, glorifica, incensa. È ciò che ironicamente osservava il napoletano Giuseppe Marotta nel suo Coraggio guardiano, da noi citato. Effettivamente il nostro ego, se potesse ascoltare, riceverebbe un robusto massaggio vivificante dalla nostra, pur ora deprecata, futura celebrazione funebre. Lasciamo perdere l'ipocrisia dei lodatori, ma soffermiamoci solo sull'orgoglio del lodato. Esso genera la vanità, un difetto che ignora l'autoironia e quindi spesso precipita nel ridicolo. Come scriveva George Eliot nel suo Adam Bede, il vanitoso è come un gallo convinto che il sole sorge per ascoltarlo cantare. Ma la copertina in realtà della Domenica del Sole 24 Ore riprende una lettura del Mulino che è stata fatta ieri a Bologna in videoconferenza dal Nobel dell'economia Angus Deaton, autore sempre per la casa editrice Mulino della Grande Fuga, e si intitola Vaccinati contro la miseria, e si ripercorre in questo tratto pubblicato dal Sole 24 Ore il tema appunto della vaccinazione, di come è nata, ed è un tema, lo sappiamo, di grandissima attualità, perché c'è questa fobia antivaccini che sta attraversando il mondo, è partita dall'America e purtroppo è arrivata anche in Europa e in Italia, tanto che il ministro della salute Lorenzin addirittura ha annunciato che i bambini si potrebbe pensare presto a un provvedimento che impedisca ai bambini non vaccinati di andare a scuola. Dalle pagine interne della Domenica, una recensione all'ultimo libro di Abraham Yehoshua, uno dei più grandi scrittori israeliani contemporanei, che si intitola La comparsa, il titolo della recensione di Giulio Busi, Dire addio a Gerusalemme. E poi un altro approfondimento, in questo caso è di Gennaro San Giuliano, che ha scritto di recente un libro su Putin intitolato Vita di una zar, quindi non vita di una star ma vita di una zar, dedicato appunto al presidente russo Vladimir Putin. Questo articolo è una sintesi di questo libro. Sua maestà la Russia, il leader del Cremlino, ha costruito la sua ascesa con tenacia, quando è stato messo nell'angolo ne è uscito più forte. Mosca è tornata a essere protagonista sulla scena geopolitica globale. Un lungo approfondimento, due pagine sulla mostra sulle mostre di Francesco Hayez a Milano, la carriera di un maestro del bacio, con oltre agli articoli di Fernando Mazzocca e Ada Masuero anche delle schede sui capolavori di questo grandissimo pittore. Ma veniamo anche agli altri supplementi, la lettura del Corriere della Sera, che come sapete ha una copertina sempre affidata a un artista, questa settimana è Italo Lupi, e poi subito alle pagine 2 e 3 un lungo articolo di Pierluigi Battista intitolato La società delle paure, dove si ripercorrono un po' quelle che sono, e qui tornano anche i vaccini, le paure proprio più che contemporanee degli ultimissimi tempi, meteo e vaccini, carni rosse, romanzi. Carni rosse, l'avete sentito, è di 2 settimane fa, 10 giorni fa, l'allarme dell'OMS che mette le carni rosse e gli insaccati tra le possibili cause del cancro. Quindi siamo diventati talmente ansiosi, scrive Battista, che vediamo pericoli da ogni parte, e di più il timore di offendere impone delle censure. Per quanto riguarda un altro aspetto un po' sempre poco indagato della letteratura, che è quello dei traduttori, alle pagine 14 e 15 un approfondimento di Ida Bozzi sugli quelli che vengono definiti gli interpreti della letteratura, cioè i traduttori di grandissimi scrittori come Roth, Pamuk, Carrère, quindi di lingue diverse, inglese, Pamuk turco, Carrère francese, Moyan cinese, un po' detective, un po' esploratori. Qui raccontano trappole e sfide del loro lavoro. Sempre dalla lettura, un articolo di Anna Chiara Sacchi su uno di quei legami sempre molto interessanti tra grandi aziende, in questo caso un'azienda di moda, e un museo, quindi un'opera per un progetto di restauro, l'abito ritrovato della dama bambina. L'Andrien di Palazzo Mocenigo a Venezia, restaurato da Louis Vuitton per una mostra, un dialogo silenzioso con i capi di oggi. Ma intanto, appunto, certo, è un modo anche per parlare della moda di oggi, della moda che fa Vuitton, però intanto restaurando pezzi di storia del costume, come questo abito che era custodito a Palazzo Mocenigo. Dalla Domenica della Repubblica vi segnalo una bellissima intervista a Viggo Mortensen, che è questo attore americano che ha fatto anche ha partecipato a molti Colossal, poi però ha cominciato a scegliere con molta cautela i suoi ruoli, legandosi anche molto a un regista come David Cronenberg. Il titolo dell'intervista: Non farete di me una star. L'intervista è di Amelia Castiglia al Grande Pubblico, titola Repubblica. Lo ha conosciuto come l'Aragon del Signore degli Anelli, i critici lo adorano da sempre, lui si sforza di essere com'è il suo cinema, indipendente, e quindi oltre a recitare scrive poesie, scatta foto e studia Camus. Che noia quando apro una rivista e vedo gli attori vendere orologi e profumi, e ce ne sono parecchi in effetti che lo fanno. A proposito di creatività, un bellissimo articolo di Angelo Acquaro su come nasce un capolavoro, partendo un po' dalla storia che ha raccontato Keith Richards dei Rolling Stones, che ha svelato che la canzone Satisfaction fu scritta nel sonno, rilanciando il mistero della creazione musicale. Misticismo o neuroscienze? E poi per la serie di lunghe interviste straparlando di Antonio Gnoli, sempre sulla Repubblica, sempre illustrate da un bellissimo disegno di Riccardo Mannelli, questa settimana è Giorgio Giorgio Pressburger, che è un regista, scrittore, autore radiofonico, televisivo e teatrale. Il titolo: tento di lasciarmi tutto alle spalle, ma ho ancora paura della notte. E ripercorre, come sempre in queste interviste, la sua vita, gli eventi più salienti, gli incontri e forse quello che lui reputa, insomma, gli elementi di saggezza che uno dopo tanti anni riesce o pensa di essere riuscito a conquistare. Da Alias, invece, ultimissima segnalazione che riesco a farvi: Alias, il supplemento culturale del Manifesto, la copertina tutta dedicata a Roland Barthes. A 100 anni dalla nascita, il mercato sembra avallare quel tenace luogo comune che separa lo scrittore ancora in auge dal critico ormai in disgrazia, ma lungo tutta l'opera corre un'identica tensione, quindi il tentativo di ricomporre un po' l'opera di Barthes. Era l'ultima segnalazione, ma davvero, come sempre, alla domenica i giornali sono pieni di approfondimenti, noi forse abbiamo un pochino più di tempo per leggerli, quindi mi auguro che tutti voi facciate questo. Ringrazio Paolo Colreoni in regia per avermi tenuta nei tempi e auguro ancora a tutti una serena domenica.